ad alta voce. Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Terza puntata. Quelle scuole erano l'unica cosa di cui a Ayla importasse. Quanto ai luoghi, si li lasciava alle spalle in un illusorio vortice di movimento, come le immagini girate in studio dei vecchi film che scorrono al di là dei finestrini delle automobili in movimento. Ne parlai con Ayla una volta in cui io, lei e Robby ci ritrovammo insieme in un pub di Londra nei pressi del Covent Garden. Robby era di passaggio a Londra, diretto a Harvard. Era in congedo del suo lavoro all'Indian Administrative Service per poter utilizzare una borsa di studio di 6 mesi in amministrazione e relazioni pubbliche. Avevamo deciso di trascorrere la serata insieme. Quando le ricordai i suoi annuari, Ayla scoppiò a ridere e, sollevando il bicchiere di whisky, disse: «Certo che mi importava della scuola. La scuola è l'unica cosa che sta veramente a cuore a ogni bambino, del tutto naturale. Tu, piuttosto, eri un po' strano, sempre seduto in quell'angusto appartamento di Calcutta a sognare luoghi lontani. Probabilmente ti ho fatto un sacco di bene, se non altro hai imparato che quelle città di cui leggevi i nomi sulle carte geografiche erano luoghi reali, non i territori fiabeschi che Tridib inventava per te». Ma Tridib, tra le altre cose, era un archeologo. Non gli interessavano i paesi delle fate. Voleva semplicemente insegnarmi a usare la fantasia con precisione, come era solito dire. Sapevo però che non avrei mai visto nulla nel modo in cui lo vedeva Tridib, con la sua immaginazione capace di prospettive infinitamente più particolareggiate e precise. Una volta mi disse che non si può conoscere nulla se non attraverso il desiderio vero, non l'avidità o la cupidigia, bensì un desiderio puro, doloroso e primitivo, un desiderio intenso di tutto ciò che è fuori da sé, un tormento della carne che conduce oltre i limiti della propria mente in altri tempi e altri luoghi e perfino, se si è fortunati, a un luogo in cui i confini fra il proprio sé e la propria immagine allo specchio sono cancellati. Lo ascoltavo disorientato, chiedendomi se avrei mai conosciuto davvero qualcosa, perché non ero certo di saper provare un desiderio di quella natura. Come potevo parlare di tutto ciò a Ayla mentre sorseggiava il suo whisky al pub? Ayla viveva così intensamente nel presente che non avrebbe creduto che esistessero davvero persone come Tridib capaci di sperimentare il mondo con la propria immaginazione, con la stessa concretezza con cui lei lo sperimentava con i sensi, o persino di più, dal momento che quelle esperienze restano impresse nella memoria per sempre, mentre quando lei parlava delle gambe del suo ultimo amante, le parole non avevano nulla a che fare con il piacere dei sensi, erano soltanto una sequenza di parole che avrebbe ricordato finché sembravano divertenti, per poi dimenticarle completamente, e con esse l'amante e le sue gambe. Per Ayla la realtà era l'oggi. Era come se vivesse in un presente simile alla conca di un canale, protetta dalle correnti del passato e del futuro da chiuse d'acciaio. Una volta, pochi giorni dopo il mio arrivo a Londra, mi accompagnò in un giro turistico al Covent Garden. Ci incontrammo alla stazione della metropolitana e lei mi condusse disinvoltamente nella vasta piazza coperta da una volta d'acciaio e mi mostrò le bancarelle di abiti usati e il mercato di frutta e verdura. Ma probabilmente si accorse che mi annoiavo perché all'improvviso decise che ne aveva abbastanza di portarmi in giro e attraversò a lunghi passi la piazza scomparendo in una delle strade che portano a Charing Cross. Mentre la rincorrevo per scusarmi, alzai incidentalmente gli occhi e notai una finestra con un'insegna dipinta. Scattai giù per la strada, la raggiunsi, la trascinai indietro e le mostrai l'insegna. «Dice Victor Gollancz», osservò lei. «E allora?» Per tutta risposta la presi per un braccio e la portai dentro. All'interno c'era un ufficio con un bancone di legno in fondo e alcuni scaffali pieni di libri lungo le pareti. Dietro il bancone sedeva una donna anziana che mi fissava nervosamente al di sopra degli occhiali. «Posso esserle d'aiuto?» chiese. «Mi può dire per favore se prima della guerra qui c'era il Left Book Club?» domandai io. «Signore, non lo so, non ero qui allora, vuole che chiami il direttore?» Scossi la testa, la ringraziai e ricondussi fuori Ayla. Era indignata adesso, oltre che sorpresa. «Che cosa ti prende?» mi chiese. Allora, fermi sul marciapiede, cercai di ricordarle quello che Tridib ci aveva detto di Alan, il fratello di Mrs. Price, che aveva lavorato al Left Book Club prima della guerra. Doveva essere proprio lì, forse addirittura in quello stesso ufficio in cui eravamo appena entrati, poiché il club occupava una parte della casa editrice Victor Gollancz. Ayla guardò di nuovo la finestra con scarso interesse, alzando le spalle, poi concluse: «Sembra un qualsiasi vecchio ufficio ammuffito, non ti pare?» A me non sembrava. Infatti, avendolo visto la prima volta con gli occhi di Tridib, il suo passato sembrava convergere col presente. Ma non lo dissi. Guardai Ayla, i lineamenti fini del suo viso dagli zigomi alti, i suoi occhi scuri e allungati, i lucidi capelli neri che le scendevano sulle spalle. Lei sentì il mio sguardo, mi sorrise, mi prese sotto braccio e mi condusse a un caffè cinese in Neal Street. E così, come sempre, fu Ayla di cui si diceva quando eravamo bambini che ci somigliavamo come se fossimo gemelli, fu Ayla che ancora una volta mi confuse con il mistero della differenza. Mentre il pub si riempiva di impiegate di banca in abiti a righine sottili e orecchini brillanti e segretarie editoriali con i capelli striati di rosso, cercai di parlare a Ayla e a Roby del Tridib archeologo, il Tridib che disprezzava il mondo delle fate assai più di Ayla, il Tridib che mi aveva detto che non possiamo vedere nulla senza inventare ciò che vediamo, così da cercare almeno di farlo nel modo giusto. E visto che Ayla scuoteva la testa con fastidio, chiedendosi perché dovessimo farlo, perché non potevamo accettare il mondo per quello che era, io le risposi con le parole di Tridib: dovevamo provare, non perché l'alternativa fosse il vuoto, ma perché non saremmo mai stati liberi dalle invenzioni degli altri se non avessimo messo alla prova noi stessi. «Ma io sono libera», disse lei ridendo. «Sei fortunata», risposi io. «Io non lo sono, o almeno non a Londra». «Perché?» chiese lei scolando il suo whisky. «A causa del Rajiv?» Mi misi a ridere, poi dal momento che lei se n'era dimenticata, e ricordai di quella volta, avevamo 8 anni, in cui si era inventata Londra per me. La famiglia di Ayla era venuta a Calcutta per Durga Puja. Infatti, dopo molti anni, sarebbero arrivati anche i suoi nonni, giusto in tempo per i festeggiamenti. Il padre di Ayla era in sabbatico. Libero dal suo lavoro alle Nazioni Unite, trascorreva quel periodo insegnando in un'università nel nord dell'Inghilterra. Aveva accettato con piacere la proposta di un visiting professor nell'Istituto di Studi sullo Sviluppo che quell'università aveva appena fondato. Anche Ayla e sua madre ne erano contente, ma appena arrivate avevano dovuto affrontare un problema al quale non erano preparate. L'appartamento destinato al padre non era abbastanza grande per un'intera famiglia. In ogni caso, Queen Victoria non era molto entusiasta all'idea di vivere in quella fredda città del nord. Come avrebbe trascorso le giornate in quei posti grigi, circondata da terrificanti bande di teppisti e fabbriche punzolenti? Avrebbe preferito vivere a Londra, ma dove avrebbero abitato a Londra e quale scuola avrebbe frequentato Ayla? Erano incerti sul da farsi quando intervenne Mrs. Price, in un modo a cui la famiglia aveva ormai fatto l'abitudine. Avrebbero potuto stare a pensione da lei a Londra e andare al nord per il fine settimana. Sarebbe stata lietissima di avere qualcuno in casa. Snipe era morto da 2 anni, ma la casa continuava a sembrare vuota e lo sarebbe stata ancora di più adesso che May aveva deciso di andarsene. Quanto alla scuola, ne avrebbero trovata una, ce n'erano molte lì intorno. Perciò, Queen Victoria e Ayla vivevano in casa di Mrs. Price a West Hampstead l'anno in cui vennero in vacanza a Calcutta. Mrs. Price aveva addirittura sistemato le cose in modo che Ayla potesse andare a scuola con suo figlio. Arrivarono in aereo qualche giorno prima dell'inizio delle feste. Poco dopo il loro arrivo, Queen Victoria telefonò a mia madre per invitarci tutti, i miei genitori, la nonna e me, ad andare in macchina a vedere la vecchia casa della sua famiglia a Rai Bajar. La mamma era al settimo cielo. Adorava i lunghi viaggi in macchina e a quell'epoca mio padre, il cui modesto successo come dirigente nell'industria della gomma era ancora lontano, lavorava troppo per potersi permettere di andare in qualunque posto durante i fine settimana. Anzi, poiché non avevamo una macchina e il denaro era troppo poco per permetterci delle vacanze, non andavamo mai da nessuna parte. Quando mia madre andò a chiedere alla nonna se potevamo accettare, le luccicavano gli occhi e mentre si dirigeva verso la scrivania dove mia nonna era intenta alla correzione dei quaderni dei suoi allievi, mi diede un pizzicotto e mi sussurrò all'orecchio a voce bassissima perché la nonna non sentisse picnic. La nonna, però, quando venne interpellata, corrugò la fronte al di sopra degli occhiali e disse con durezza a mia madre che Queen Victoria ci invitava soltanto perché voleva qualcuno che giocasse con Ayla e che noi non eravamo dei pezzenti pronti ad affrontare qualunque cosa ci venisse offerta. Indovinai la delusione di mia madre dal modo in cui le sue dita si conficcarono nella mia spalla. «Non c'è nulla di sbagliato nell'andare con loro», si lasciò sfuggire mia madre. Poi, di fronte all'occhiata della nonna, si chiuse in un silenzio risentito. Allora mi avvicinai alla scrivania della nonna e le parlai. Invece di supplicarla, le ricordai che l'anno prima mio padre aveva portato allo zoo me e Ayla e che lei stessa aveva cucinato molte volte per Queen Victoria il miglior ilish del mercato del pesce di Gariahat. La nonna si rilassò, come avevo previsto, perché si confidava con me più che con chiunque altro e io conoscevo alcune delle paure che lei aveva coltivato dentro di sé per lunghi anni dopo la morte prematura del nonno, quando aveva dovuto mettersi a insegnare per mantenere mio padre gli studi. Immaginavo quanto le fosse costato allora rifiutare l'aiuto della sua ricchissima sorella e la fama di orgogliosa che si era guadagnata, e intuivo che ciò che le aveva impedito di accettare subito era il timore di non poter ricambiare nella stessa misura. 2 giorni dopo, la mattina presto, tutti e 4 insieme, i miei genitori, la nonna e io, ci recammo a Gole Park, dove avevamo appuntamento. Ci fermammo ad aspettare di fronte all'edificio della Ramakrishna Mission, osservando davanti ai negozi di dolciumi i marciapiedi che venivano puliti e poi sporcati di nuovo dalla folla che si affrettava verso Gariahat finché gli ortaggi e il pesce erano freschi. Finalmente scorsi la loro vecchia automobile Studebaker che avanzava maestosa verso di noi lungo Gariahat Road. Non riuscivo più a star fermo per l'eccitazione di rivedere Ayla. «Eccoli!» gridai, e saltellando qua e là li indicai con la mano. «Eccoli, eccoli!» «Riesco a vedere Maya», disse la nonna seguendo il mio dito. «Ma dov'è il Shaheb?» La nonna chiamava suo cognato, marito di Maya Debi, il Shaheb fin da quando, molto tempo prima, aveva sentito la madre di lui dire con orgoglio che suo figlio si era europeizzato tal punto che la sua testa non si separava mai dal cappello. «Eccolo!» disse mia nonna con voce acuta. «Tutto solo sul sedile posteriore, appoggiato all'indietro con la sua pipa, come se si stesse recando a una visita di Stato. Mi chiedo quale uniforme indossi oggi». Mia nonna nutriva la convinzione che il guardaroba del Shaheb fosse composto da diverse serie di appendiabiti, ciascuna con la sua etichetta: zamindar di Calcutta, diplomatico indiano, gentiluomo inglese, futuro Nehru, giocatore di tennis del South Club, uomo di stato non allineato e così via. Senza dubbio, l'abbigliamento del Shaheb era in ogni occasione di una rigorosa compiutezza. «Sembra una bambola agghindata in una vetrina», era solita dire mia nonna. «Non mi stupisce che tutti lo guardino». Ma era una critica ingiusta. Infatti la sua straordinaria distinzione, davvero sorprendente, lo imponeva all'attenzione di chiunque. Era alto e sdello, con un viso lungo e regolare, naso volitivo, occhi lucidi e malinconici e una massa di capelli lisci che ingrigivano con discrezione sulle tempie come metallo brunito in una bufera di neve. Dovunque andasse, gli sguardi lo seguivano come proiettori che accompagnano una modella. «Guarda, guarda», mi sussurrò all'orecchio la nonna mentre l'auto accostava al marciapiede. «Ne ha uno nuovo oggi». Quando la macchina si fermò, notammo che indossava una giacca di velluto verde pallido con una cravatta di seta. Poi Maya Devi saltò fuori e lei e la nonna si gettarono l'una nelle braccia dell'altra, ridendo e parlando velocissime in quella lingua che nessuno di noi capiva bene, il loro vecchio dialetto di Dhaka. Dopo essermi chinato a toccare i piedi a Maya Devi, sollevai gli occhi e vidi che si tenevano la mano sopra la mia testa come compagne di scuola che si sorridono divertite a labbra strette, immagine esatta l'una dell'altra, come se ci fosse uno specchio tra di loro. «Invece», osservò Roby, lasciando sul tavolo tracce della sua birra, «non si erano mai somigliate, erano del tutto diverse». Sollevò il capo, mi diede un'occhiata e scosse la testa. «Non c'era indizio di somiglianza neppure in me», sentenziò arricciando il naso. Poi rise e mi schizzò con un po' di schiuma dall'orlo del bicchiere. «Chissà perché», disse, «io le assomiglio molto più di te». Non potevo contraddirlo. Mia nonna aveva sempre detto la stessa cosa. Puntava un dito sul forte mento rotondo di Roby e diceva: «L'ha preso da me, è mio». Forse era a causa di quella somiglianza che dei tre figli di Maya Devi, Roby era stato sempre il suo preferito. Lo guardava e si meravigliava che fosse di mezza testa più alto di qualunque ragazzo della sua età e avesse gambe lunghe e vigorose. Gli premeva con l'indice i muscoli dell'avambraccio, irrobustiti dai molti sport che praticava fin dall'età di 9 anni, e gli diceva: «Sei forte, non dimenticarlo, sei forte». Poi si voltava verso di me e continuava: «Guarda Roby, è forte, non è come tutti voi altri in questo paese». Una volta, Roby non doveva avere molto più di 12 anni, la nonna ricevette una lettera di Maya Devi che le parlava, o almeno accennava, a qualche difficoltà di Roby nel collegio del nord dell'India in cui lo avevano mandato di recente. Aggiungeva che lei, Maya Devi, stava pensando di tornare in aereo e toglierlo dalla scuola. La nonna si preoccupò tanto da mandare un messaggio a Tridib pregandolo di venire da noi. Pensava che lui avrebbe saputo informarla dell'accaduto. Tridib venne a casa nostra una settimana dopo, Ma quando la nonna gli domandò cosa fosse successo, fece spallucce e disse che era una cosa da nulla. Robby si era ficcato in un piccolo guaio perché aveva picchiato un ragazzo più vecchio che era notoriamente un prepotente e aveva pensato bene di litigare con uno degli amici di Robby, un ragazzo che non si poteva difendere perché aveva un piede deforme. Robby aveva picchiato quel bullo con tale decisione da spedirlo all'ospedale per 2 giorni. «Dunque gli insegnanti si sono arrabbiati», domandò la nonna, «e hanno scritto a Maya Debbie». Tridib rise e rispose che non era successo niente del genere. Probabilmente gli insegnanti non erano molto dispiaciuti e certamente non avevano scritto a Maya Debbie. E quanto ai ragazzi, Robby era diventato un eroe nel giro di una sera, ma Maya Debbie era venuta a conoscenza dei fatti e si era lasciata prendere dal panico. «Perché?» chiese la nonna stupita. «Di che cosa si preoccupa?» Tridib le spiegò che si preoccupava per il semplice fatto che Robby avesse deciso di fare a pugni. Pensava che fosse cambiato, che fosse diventato come il ragazzo con il quale si era battuto. Temeva che non fosse abbastanza forte né abbastanza vecchio da difendere la sua posizione. La bocca di mia nonna si ridusse a una linea sottile. Con uno schiocco deciso delle dita disse: «Certo che Robby doveva picchiarlo. Cos'altro avrebbe dovuto fare? Maya dovrebbe essere orgogliosa di lui. Io lo sono. Ma in fondo lui è come me, non come Maya». Rimase in silenzio per alcuni minuti, appoggiata allo schienale della sedia, le mani serrate in grembo. Poi, fissando sulla parete uno sguardo assente, aggiunse: «Non mi sorprende. In un certo senso, Maya è sempre stata un po' sciocca». Allora, con una voce lenta e assorta per lo sforzo di ricordare, cominciò a raccontarci di un ragazzo che era in collegio con lei ad Acca decenni prima, all'inizio degli anni 20. Era un ragazzo timido, riservato, con una piccola barba sottile. Viveva in una stradetta vicina alla loro, nel quartiere di Potuatuli, ad Acca. Nell'aula stava sempre seduto più in fondo possibile, e dal momento che non parlava con nessuno, nessuno faceva caso a lui. Poi, una mattina, nel bel mezzo di una lezione, era arrivato un gruppo di poliziotti capeggiati da un ufficiale inglese e aveva circondato l'aula. L'insegnante aveva protestato, ma era stato zittito da un poliziotto. Dopo aver allontanato l'insegnante, l'ufficiale inglese aveva estratto la pistola e aveva passato in rassegna tutti i presenti, confrontando attentamente il volto di ciascuno con quello di un pezzo di carta che teneva in mano. Procedeva lentamente, coscienziosamente, mentre loro sudavano sotto il suo sguardo. Dopo un tempo che sembrò eterno, accennò un sorrisetto e i suoi occhi si fissarono su qualcuno in fondo alla stanza. Si erano girati tutti e all'improvviso un sospiro di stupore collettivo aveva attraversato l'aula. Era il ragazzo timido con la barba. Si era alzato in piedi, adesso, impassibile, la schiena dritta, fissando sul poliziotto uno sguardo chiaro, diretto, provocatorio. Sembrava assolutamente tranquillo, ma osservandolo attentamente, lei aveva notato le sue dita tamburellare sulla coscia per un istante e aveva capito che era spaventato, forse più di quanto lei sarebbe mai stata. Ma né allora né dopo, quando lo ammanettarono e lo condussero fuori dalla stanza, aveva lasciato trapelare la sua paura, né aveva distolto gli occhi da quelli dell'ufficiale. Mi grattò la testa con delicatezza e guardandola mi accorsi che con le nocche si asciugava gli occhi umidi. «Tutte le volte che guardo Robby», disse, «penso che anche lui, se fosse stato là, si sarebbe comportato nello stesso modo, a testa alta, con fierezza». sorprise una risata profonda accarezzandomi la testa. Ma non sarei altrettanto sicura di te. E il ragazzo voleva sapere, Tridib, che cosa ne era stato di lui. In seguito avevano saputo che era un membro di una società segreta terrorista fin dall'età di 14 anni. Si era esercitato alla loro scuola, imparando a usare le pistole e a fabbricare bombe, consegnando messaggi e portando ambasciate. Pochi mesi prima dell'arresto era stato finalmente ammesso a far parte dell'organizzazione. La sua prima missione aveva come obiettivo un magistrato inglese del distretto di Khulna che lui doveva uccidere. Ormai era tutto pronto, avrebbe dovuto partire per Khulna alla fine di quella settimana, ma la polizia aveva scoperto tutto. La sua rete di informatori era leggendaria. Il ragazzo era stato processato e in seguito deportato nelle isole Andamane, nel tristemente famoso Cellular Goal. Dopo quel fatto, ogni qualvolta passava con Maya Deby vicino alla casetta in cui aveva vissuto il ragazzo, gliela indicava e le raccontava la storia. «E volete saperlo?» disse la nonna ridendo. Ogni volta Maya si riempiva di spavento, mi prendeva la mano e mi spingeva a passar oltre in fretta. «E tu?» chiese Tridib. «Che cosa ne pensavi?» «Avevo preso l'abitudine di sognarlo», disse dolcemente. «Per anni mi sarebbe successo di stare distesa nel mio letto a ricostruire il suo volto tutto intero, con quell'assurdo nastrino di barba». La voce di Elia Shilton per la terza puntata di Le linee d'ombra di Amitav Ghosh. Questa è la proposta che la redazione di Ad Alta Voce ha scelto per voi. Abbiamo iniziato lo scorso lunedì e proseguiremo fino al 21 dicembre. Vi ricordo che potete riascoltare le puntate precedenti di Ad Alta Voce su raiplayradio.it, anche i cicli precedenti, e che il programma Ad Alta Voce è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio.